Mamma, dammi tranquillanti come quando ero bambino e mi lasciavi tutta notte chiuso nello sgabuzzino. Quando papà beveva e diceva che ci uccideva, poi prendeva e rinchiudeva anche dei sgabuzzino. Signore battone, sono sopravvissuto e nonostante tutto il ragazzino è cresciuto. Mio padre a terra svenuto, prendo un coltello e mi avvicino, gli strappo l'intestino. Ti piace papino? Oh cazzo, ora direi che voglio fare il cattivo, che sto ammazzando mio padre per apparire più figo. Ma credimi amico, mica controllo ciò che dico. Cazzo culo, finché te ti sei che pompino, ho il battito cardiaco di un malato terminale. Fatti trascinare dal mio modo di fare, scassino la bottega e poi fai come me, rubo una motosega. Fumiamo l'archile con mio fratello in salotto, apriamo la busta ma di fumo ce n'è troppo. Ci cado un tocco a terra, legalizziamo l'erba e mi chiedo se il mio voto se lo merita pannella. Te lo meriti, te lo meriti, cazzo quando te lo meriti, meriti. È inutile far rap quando resterò così, uno sconosciuto in un mare di MC. Te lo meriti, te lo meriti, cazzo quando te lo meriti, meriti. Mollami ti prego perché non mi meriti, o finire ammazzata proprio come meriti. Scrocco troppo spesso ma rimorchio lo stesso, chissà se di voi si può dire lo stesso. Sono stato maltrattato forse proprio per questo, che mi sputano tutti quanti come sto facendo adesso. Ma qualcosa su di voi all'orecchio mi è arrivata, fate i figli della strada ma andate a scuola privata. Studiate per diventare avvocati e dottori, e i vostri genitori un matrimonio rose e fiori. Io soltanto i miei vestiti dentro una 24 ore, vaffanculo al vostro mondo di pace e amore. Questo è un mondo di assassini e di fottuti delinquenti, che impazziscono e colpiscono con oggetti contundenti. Perciò mi finco pazzo e con un cazzo di coltello pugnalo quella foto che ritrae Donatello. Non mi stimo, mi detesto, la nausea di me stesso. Mi fingo mega e medicato per sputarmi nello specchio. Te lo meriti, te lo meriti, cazzo quando te lo meriti, meriti. È inutile far rap quando resterò così, uno sconosciuto in un mare di MC. Te lo meriti, te lo meriti, cazzo quando te lo meriti, meriti. Mollami ti prego perché non mi meriti, o finire ammazzata proprio come meriti. Ho rap radioattivo come uranio impoverito, indossa tutta e disombossa se vuoi starmi vicino. Sono peggio di una scossa, sono come il tuo vicino, che infastidito nei pianti ti ammazza il bambino. Porto le puttane in sella al motorino, le sparo le gemella. Io non sono quello cattivo, hai sbagliato obiettivo. Scommettiamo che proprio adesso da qualche parte c'è un omicidio. Vuoi giocarti il culo che si accende il televisore, ne ti dice di sicuro qualche mamma in depressione, che ha ammazzato il suo bambino senza averne intenzione, occultando nei cadaveri in un cazzo di bidone. Sono una provocazione per tutta quanta la nazione, sul mio cazzo di linguaggio non vi do.